Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Ben ritrovati ad Assemblea On Air, il programma che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna. In studio, Isabella Scandaletti e Margherita Giacchi. In questa puntata, la proposta di legge alle Camere per sostenere il Servizio Sanitario Nazionale, la prevenzione contro il papilloma virus, i dati sulla cura del ferro per il bacino padano, alcuni dei question time presentati in aula in tema di trasporti e dissesto idrogeologico. Più risorse per la sanità pubblica. L'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna ha approvato la proposta di legge alle Camere che chiede al Parlamento ulteriori 4 miliardi per le spese sanitarie del 2023, portando progressivamente al 7,5% del PIL il finanziamento annuale del Servizio Sanitario Nazionale. Il testo, firmato dalla Giunta regionale, chiede anche di superare i vincoli di spesa per nuove assunzioni e garantire stipendi adeguati al personale sanitario. Questa proposta di legge, sostenuta dal Partito Democratico e condivisa anche da sindacati e terzo settore, mira a tutelare il diritto alla salute e la difesa della sanità pubblica. Così spiega Marcella Zappaterra del Partito Democratico. Speravamo di trovare un aumento per il 2023 e per il 2024 di 4 miliardi nella legge di bilancio, ma è arrivato il testo, c'è un aumento di 3 miliardi dal 2024 e l'80% di questa cifra se ne va per i rinnovi contrattuali del personale, che sono sacrosanti, ma non c'è un euro in più per i servizi. Per la lista Bonaccini questa legge contiene proposte strutturali, al contrario del governo che non mette in campo una logica di programmazione. La capogruppo Stefania Bondavalli. Questo progetto di legge va assolutamente sostenuto, va sostenuto a spada tratta perché pone al centro un tema importante, quello dei finanziamenti al Servizio Sanitario Nazionale e poter contare su risorse certe innanzitutto, ma anche adeguate e soprattutto progressive nel tempo. Se per la maggioranza questa proposta di legge che chiede ulteriori 4 miliardi su 2023 per sostenere i bilanci della sanità fornisce risposte che non arrivano dal governo, per le opposizioni invece è strumentale e cavalca le difficoltà del paese. Sentiamo il commento di Daniele Marchetti della Lega. È una proposta assolutamente strumentale dal momento che il centro-sinistra è stato silente di fronte ai tagli applicati dai governi nazionali di centro-sinistra, ben meno 37 miliardi nel corso di questi ultimi anni. I problemi in sanità ci sono e come, nessuno disconosce questo, però vanno affrontati in maniera seria, puntuale, strutturale e non strumentale come sta cercando di fare il Partito Democratico e più in generale il centro-sinistra a livello regionale e a livello nazionale. Secondo Fratelli d'Italia questo progetto di legge è inaccettabile perché il governo quest'anno ha già stanziato 3 miliardi di euro per la sanità. La capogruppo Marta Evangelisti. La Regione Emilia Romagna oggi chiede soldi ma non spiega come impiega i suoi finanziamenti. Abbiamo 87 milioni di ticket non riscossi e poi chiediamo soldi al governo. Siamo contrari, il governo ha stanziato quanto dovuto, noi crediamo che l'Emilia Romagna debba fare la sua parte e rivedere le politiche in materia di sanità. Durante la votazione Forza Italia ha deciso di uscire dall'aula e non partecipare al voto. Le motivazioni espresse da Valentina Castaldini. Ritengo che un tema così importante non debba essere trattato in questo modo. Ci sono responsabilità della Regione Emilia-Romagna nella gestione della sanità. È evidente che a tutti i governi sono sempre stati chiesti soldi, contributi importanti, ma affrontare un tema come questo in Assemblea Legislativa è fuorviante. L'Emilia Romagna è la regione con il più alto tasso di copertura vaccinale contro il papilloma virus, un microorganismo trasmissibile per via sessuale e responsabile di infezioni che possono portare allo sviluppo del cancro alla cervice uterina. Per questo serve tenere alta l'attenzione e se ne è parlato in Commissione Politiche per la Salute. Prima del Covid la copertura sfiorava il 95%, ma oggi i dati sono in lieve calo. Serve dunque intervenire sulla sensibilizzazione dei più giovani e delle loro famiglie. Cambiamo argomento, è tempo di bilanci per la cura del ferro, la legge varata in regione per incentivare il trasporto ferroviario delle merci. Meno mezzi pesanti sulle strade significa anche meno inquinamento e una riduzione dei costi ambientali e sociali. La Commissione Ambiente, Territorio e Mobilità ha fatto il punto sui risultati ottenuti nell'ultimo triennio grazie a contributi diretti alle imprese di logistica. Sentiamo il presidente della Commissione e esponente del Partito Democratico Stefano Cagliandro. Intanto si certifica che la scelta della cura del ferro che questa regione ha fatto ha dato buoni esiti, perché avere 33.000 tonnellate di anidride carbonica in meno in soli 3 anni è un fatto di grandissima importanza per la salute di tutti quanti. Quindi la linea che viene fuori da questa prima sperimentazione di questi primi 3 anni è che dobbiamo continuare e incrementare questo processo. Nell'arco di 3 anni gli incentivi erogati hanno consentito di togliere dalle strade dell'Emilia-Romagna quasi 54.000 mezzi pesanti diesel e spostare sul trasporto ferroviario un ulteriore 1,5 milioni di tonnellate di merci. I benefici ambientali e sociali sono quantificabili in 5.300.000 euro a fronte di contributi regionali erogati per oltre 1,5 milioni. Sui dati della relazione, Michele Facci della Lega segnala qualche contraddizione. A fronte degli indiscutibili benefici ambientali prodotti, gli stanziamenti di 3 milioni di euro complessivamente previsti dalla Regione non sono stati tutti utilizzati. Sentiamo Facci. Le risorse vengono ancora una volta spese per poco più della metà, non è la prima volta, e questo fa pensare che evidentemente i criteri di questi bandi non siano interessanti, siano da rivedere. Noi abbiamo chiesto che vengano rivisti proprio per permettere un maggior spostamento di merci sul trasporto ferroviario. Passando dalle merci ai passeggeri, il tema del trasporto ferroviario è stato anche oggetto di 2 question time sottoposte alla giunta regionale. Giulia Pigoni di Italia Viva ha chiesto cosa intenda fare la Regione per scongiurare il forte ridimensionamento dei collegamenti con i Frecciarossa nelle stazioni di Modena e Parma previsto dal prossimo 10 dicembre. Sono contenta di aver sentito la risposta del sottosegretario, che ci ha già motivato come la forte contrarietà della Regione, anche attraverso una lettera che è stata inviata dall'assessore Corsini al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Pensiamo che penalizzare in questo modo Modena, Parma e in generale comunque la nostra Regione sia una scelta molto sbagliata e speriamo che ci sia un ripensamento da parte del Ministero e di Trenitalia. Federico Amico di Emilia Romagna Coraggiosa è tornato con un nuovo question time sul mancato funzionamento degli ascensori nelle stazioni di Reggio Emilia e Bagnolo in Piano, per conoscere quali azioni siano state intraprese dalla società FER per garantire alle persone con mobilità ridotta l'accessibilità al servizio ferroviario. Sentiamolo. Non sono stato assolutamente soddisfatto, perché comunque sono stati installati tra il 2004 e il 2007, non sono mai entrati in funzione e si configura effettivamente uno spreco di soldi pubblici. Spero che dopo aver ripristinato quelli della stazione CIM possano essere rimessi in funzione anche gli altri. Dopo l'emergenza creata nei giorni scorsi dal maltempo nelle province di Parma e Piacenza, sono 2 le interrogazioni presentate distintamente, una dal Partito Democratico e l'altra dalla Lega, riguardo agli interventi per la messa in sicurezza idraulica di un vasto territorio coinvolto da allagamenti, frane, evacuazioni e dal crollo di un ponte. Sentiamo Matteo Daffadà del Partito Democratico e subito dopo Matteo Rancan della Lega. Ora dobbiamo davvero capire come ripristinare, ma soprattutto capire nel futuro come vogliamo governare il nostro territorio. Credo insieme agli agricoltori, agli operatori e alle aziende che sono sul territorio, che bisogna cercare di aiutare a mantenere meglio il nostro territorio. Perché non si investe in pulizia, in manutenzione concreta? Abbiamo visto anche in Romagna, abbiamo visto in altre province, in tutta la nostra regione, che se non si interviene subito con la manutenzione ordinaria e con la pulizia dei fiumi si rischia davvero delle alluvioni molto importanti. Ancora un question time che riguarda il ripristino del territorio. Silvia Piccinini del Movimento 5 Stelle ha chiesto notizie sugli interventi per la messa in sicurezza del torrente Zena in provincia di Bologna, esondato a seguito dell'alluvione del maggio scorso. Ci sono rischi che i detriti e le ramaglie che sono nell'alveo del fiume possano andare a ostruire i ponti esistenti, e l'auspicio è che si intervenga sicuramente tempestivamente, perché c'è molta preoccupazione sul territorio. Siamo al termine della nostra puntata. Per rimanere aggiornati seguiteci sui nostri profili social e sui siti cronacabianca.eu, assemblea.emr.it. Grazie per essere stati in ascolto e a risentirci su queste frequenze. Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna, programma cura del Servizio Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna. In redazione Margherita Giacchi, Andrea Perini e Isabella Scandaletti. Contributi audio di Davide Landi, Agenzia Dire, direttore Mauro Sarti.